Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla e siamo nel bel mezzo della settimana delle 101 storie zen. Io non so voi come lo vedete il mercoledì, ma il mercoledì per me è sempre l'immagine di quando arrivo in vetta sull'Himalaya e vedo un panorama fantastico, vedo che sto arrivando al weekend. Ho fatto una fatica pazzesca lunedì ad alzarmi. Mi sono spaccato il culo martedì in forma, proprio correndo da destra a sinistra dalle 8:30 alle 8:30. E mercoledì ti svegli presto perché vedi che stai arrivando in cima. E a pranzo senti che d'ora in poi è tutta discesa. E domani è giovedì. E siamo quasi arrivati alla fine. E sono belle sensazioni quelle del mercoledì. E noi siamo qui, in mezzo alle storie, le 101 storie zen. Un libro che, come vi ho raccontato, mi ha regalato per il mio compleanno il mio grande amico Mendo. E ora, nel mezzo della settimana, andiamo a sentire la storia numero 45. La storia che è in mezzo al bene e al male. Durante le settimane in cui Bankei faceva il suo ritiro di meditazione, gli allievi venivano da tutto il Giappone per assistervi. Nel corso di uno di questi seminari, un allievo fu sorpreso a rubare. L'episodio fu riferito a Bankei con la richiesta che il colpevole fosse scacciato. Bankei ignorò il fatto. Successivamente, l'allievo fu colto di nuovo in flagrante. E anche questa volta, Bankei non si curò della faccenda. Questo fece andare in collera tutti gli altri allievi, che presentarono una petizione in cui chiedevano l'allontanamento del ladro, affermando che altrimenti se ne sarebbero andati tutti quanti. Allorché Bankei lesse la petizione, li convocò tutti e disse: «Voi siete fratelli assennati. Voi sapete quello che è bene e quello che non lo è. Voi potete andarvene a studiare altrove, se così vi garba. Ma questo povero fanciullo, fratello, non sa nemmeno distinguere il bene dal male. E chi glielo insegnerà se non lo faccio io? Lo terrò qui anche se doveste andarvene tutti quanti». Un fiume di lacrime inondò la faccia del fratello che aveva rubato, e ogni desiderio di rubare era scomparso in lui. E voi, quando siete a metà strada tra due scelte, tra il bene e il male, quale via prendete? Pensateci. James Blunt direbbe che lui prende la strada che va verso l'alto. E questa è High di James Blunt. Beautiful dawn. Up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up and see with you. Beautiful dawn. I'm just chasing time again. Thought I would die a lonely man. starts with the stars again. Do you remember the day when my journey began? Will you remember the end of time? Beautiful dawn, you're just per concludere vi racconto la storia numero 16. Ragazzi, lo Zen ispirato a un Buddha. Questa è la storia ispirata a un quasi Buddha. Uno studente universitario che era andato a trovare Gazan gli domandò: hai mai letto la Bibbia cristiana? E Gazan disse: no, leggimela tu. Lo studente aprì la Bibbia e lesse da San Matteo: e perché ti preoccupi delle vesti? Guarda come crescono i gigli dal campo. Essi non lavorano e non tessano. Eppure io ti dico che nemmeno Salomone in tutta la sua gloria era abbigliato come uno di loro. Perciò non darti pensiero del domani, perché sarà il domani a pensare le cose. E Gazan osservò: chiunque abbia detto queste parole a me sembra un uomo illuminato. Lo studente continuò a leggere: chiedi e ti sarà dato, cerca e troverai, bussa e ti sarà aperto, perché colui che chiede riceve, colui che cerca trova, e a colui che bussa verrà aperto. Gazan commentò: questo è molto bello, chiunque l'abbia detto è quasi un Buddha. Se vi è piaciuta, magari ve ne posso leggere ancora un'altra. Cosa ne pensate? Vi posso leggere La strada fangosa, o Un cinese felice, o forse Un Buddha. Abbiamo letto il quasi Buddha. Allora andiamo alla numero 13. A Tokyo, nell'era Meiji, vivevano due illustri insegnanti molto diversi tra loro. L'uno, un Ushu, istruttore a Shingon, osservava scrupolosamente i precetti di Buddha. Non beveva mai alcolici, non mangiava mai dopo le 11 del mattino. L'altro, insegnante, Tanzan, professore di filosofia all'università imperiale, non osservava nessun precetto. Quando aveva voglia di mangiare, mangiava. Quando aveva voglia di dormire durante il giorno, dormiva. Un giorno, Usho fece visita a Tanzan e lo trovò che stava bevendo del vino che un buddista non dovrebbe mai nemmeno assaggiare. «Salve, fratello!» lo salutò Tanzan. «Ne vuoi un bicchiere?» «Io non bevo mai!» esclamò Usho solennemente. «Chi non beve non è neanche umano!» disse Tanzan. «Vorresti dire che sono inumano solo perché non mi concedo bevande alcoliche?» proruppe Usho incollerito. «Se non sono umano, allora, che cosa sono?» «Un Buddha», rispose Tanzan. E con questo abbiamo finito. Ma prima di finire c'è sempre una domanda. Siete riusciti a capire chi siete? Buonanotte a tutti. A domani con l'ultima puntata delle buonanotte di allineamenti della settimana. Qui ragazzi che vi parlava. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.